A sei giorni di cammino dal tuo cuore, a sei giorni di fatica dal rumore, a sei dita dalla prossima tormenta, penso che probabilmente io mi addormenterò. I chilometri di altezza verticale, a 40 gradi sotto il tuo paltò. Sarebbe anche normale se in questa notte io qui morirò. A 6 ore di distacco dal mattino, è leggera la mia ombra, però un po' meno di prima col respiro che mi ingombra la tendina. Il mio zaino non fa molta compagnia, però credo che sia giusto che ci sia, con il peso delle cose per scalare, le borracce con l'acqua da portare. Dovrei chiedermi perché sono qui come uno scemo a sfiorare con la mano questo cielo. Faccio finta che sia mio, proprio come quella vetta, te ne porterò una fetta per amore o per vendetta, come fosse la mia vita o la tua stessa, col permesso di salita e di scommessa. Ero solamente un punto che si muove impercettibilmente sulla mia cartina, a distanza siderale dalla terra e dalle stelle. Ero solamente un'ombra che cammina al cospetto indifferente della cima, con il ghiaccio in mezzo ai denti e sulla pelle. Lungo la mia arrampicata, con la barba siderata, fino all'ultimo pendio, la montagna, forse Dio, non si sono mai curati di sapere se io c'ero o se non c'ero. A 40.000 gradi sotto zero, ti racconterò poi tutto il mio ritorno, però intanto me lo scrivo prima che rifaccia giorno, sempre ammesso che sia vivo. Nel frattempo mi accontento come un santo in mezzo ai ghiacci di parlare col silenzio dei crepacci. Tornerò con la mia sacca fino in fondo al fondo valle, con il peso di quest'acqua sulle spalle, che bisogna trasportarla perché servirà domani a dissetarmi, sempre ammesso che domani io riuscirò a svegliarmi. Ero solamente un punto che cammina, invisibile sul dorso della crina, a distanza siderale dalla terra e dalla luna. Ero la mia miserabile speranza al cospetto della dea dell'abbondanza, con il sangue sulla bocca, con la schiuma. Lungo la mia arrampicata, con la mente assiderata, dal primissimo sentiero fino all'ultimo pensiero, ho cercato inutilmente di capire se ero un uomo un po' migliore o un imbroglione, o sciarpa della mia disperazione.